pur mi converrà ubbidire e crepar, che carità! Eccolo, è quasi meglio che io mi ne vada. Dove vai, Sandrina? Non lo so, nemmeno io. Sei forse in collera? No. Ma tu sei turbata, hai gli occhi rossi, sembri quasi piangente. Dimmi, carina, che c'è stato? Niente. Ma perché non mi guardi? Ma perché non mi parli? Perché no? Come? Che mai t'ho fatto? Non lo so. Povero me, che vuol dire questo? Forse tu non mi vuoi più bene, non hai per me più amore. Eppur converrà dirlo, no, signore. Come? Non son più quello che tu amasti finora, che si fedel t'amò, che doveva sposarti. Signor, no. Così mi parli e piangi. Anima nera, perfida malandrina, tu vuoi la mia rovina, tu vuoi la morte mia. Sarai contenta, correrò ad affogarmi in qualche fosso, o giù da qualche balza, anderò a rompicollo, con tal spina nel cuore, già più viver non posso. Ma perché mi trattieni? Che ti importa di me? Non mi discacci, quel cuor non mi ingannò, non mi lasci, crudele. Signor, no! Io son per impazzir, chi t'ha insegnato cotesta signoria? È meglio in verità che io vada via. Te ne vai! No! Mi scacci, o da lasciarti? No! Sei disgustata? No. Maledetto no! Sono disperata! Ma di, ma parla, ma risolvi al fine! Mami, o non mami, o da partire, o resto, son tuo sposo, o non